sogna quasi non ho che ciao a tu, vabbè. dipende di Marcuccio che fa parecchio. Cioè? No, oh, non mi arriva a segnare la fondoscala. Prova 1, 2, 3, prova cappa. Controlla se è collegato tutto bene. Non è a posto il connettore. E fighi è aperto? Sì. Eh? Avvicinami quando vuoi. Cava cava. Hola, mandava un po' di più andava. Ripeto, il segnale, no, non altro. Ma oggi no. Beh, avvicinami quando vuoi. Pronto, eh. Mi sono che viene da mangiare il polpetto. Ancora non l'ha preparato mia moglie. Hai un licenza in tronco? Sono le 6, sono ancora. È vero che devo fare merenda con i polpetti. A me è abbassato un po' lo smitter. Cosa tu? Un po' lo smitter a me è abbassato. No. Ho fatto solo quella roba là. Avvicinami dove è attiva. Prima ieri andava di più, andava al segnale. No, non ci ho fatto caso, neanche. Cazzo, sei 9.25 così, cazzo, è impossibile. No. Vabbè, questo è l'altro, eh. Un attimo. Vai, così è staccato. Così è attaccato. Che cazzo gli hai preso? Bisogna comunque pulirlo bene dentro, tu. Hai visto la foto? Tutta roba sporca da col tempo, con gli anni. Portamela domani mattina tu. Lo faccio. Ciao. Vabbè, beh, ti sto pulendo qua un'altra roba. No, non riesco a capire se sto ricevendo meno io o che cosa. Sta avendo una preoccupazione. Aspetta, qua entra qualcun altro. Aspetta che provo a mettere l'antenna diretta un attimo. Prova, tempo, 1, 2, 3, staccato, tanto siamo vicini, così che... Aspetta, ti aumento dall'apparecchio. Oh, aspetta, mi allontano. Siamo... proprio educaticato, lo rimetto come era prima. Cos'è, tu? Cos'è quello da regolare? No, non riesco a capire perché non mi sale lo smitter, capito? Non è che non mi sale, di solito sale, tocca il DB quando parli tu. Non lo fa. Sì, lo controlliamo, tu. C'è problema. Vedi un po', vabbè. Passo uguale, se no fischia tutto. E andava per... Prova. Ma comunque devo portarti le benzina, no? Ma allora non è roba di antenna. È roba di... Guardate, non c'è roba di antenna. È proprio roba di regolazione. Sì. Tanto ti lascio che già sono in ascolto comunque, che sto pulendo qua l'altra stampante. Ok, aspetta, mi ha chiamato mia moglie.